Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Papà, vieni su a letto con me. Salgo e sto sul bordo, in bilico, rischiando continuamente di cadere. Poi scendo e mi metto per terra. Silenzio. Mi fanno male le braccia. Le dico che sta crescendo, anche al papà facevano male le ossa quando stava crescendo. Poi è passato. Silenzio. Agnese dorme. Sono Oscar, ho 38 anni e vivo a Treviso. Sono psicologo, ho due figli, Agnese e Andrea, e una splendida compagna. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, è giovedì 1 di novembre 2012, quindi è la festa dei morti e no, è la festa dei santi, ogni santi, i morti è domani, giusto? Margherita Ina ne sa meno. Allora, io mi ricordo così, che il 2 è la festa dei morti, l'1 è ogni santi, però si va al cimitero l'1, perché è l'1, è oggi che è festa. Bene, vi immagino quindi non al lavoro, non a prendere i figli a scuola come di solito capita, non in giro in auto mentre andate da un cliente all'altro, non nel vostro studio a lavorare, ma a casa dopo pranzo si mangia, o al cimitero, o magari state andando al cimitero. Dovunque stiate andando, qualsiasi cosa stiate facendo, noi siamo qui, continuiamo a raccontare ogni giorno una storia diversa. La storia di oggi è la storia di Oscar e della sua piccola bambina Agnese, che ha 3 anni, e di quel momento particolare in cui si perde coscienza e ci si addormenta. Visto che si parla di quello, si parla di quel momento in cui ci si abbandona al sonno, oggi abbiamo deciso di parlare di sogni. 349 238 6666, se siete davanti a un computer, il profilo Facebook del programma è sempre quello lì, e voi siete qui, Radio 24. L'ultimo sogno che avete fatto, quello che avete fatto questa notte oppure la mattina. Di solito si sogna la mattina, cioè poco prima di addormentarsi, non mi ricordo come si chiama quella fase, ma si sveglia la mattina, non so se è la fase REM. La fase REM è il sonno profondo, forse. Vabbè, comunque sia, il sogno che avete fatto, come scrive Giovanni: ho sognato, non ricordo più cosa, ma mia moglie mi ha svegliato perché stavo ridendo come un pazzo. Questo non è mai, solito si urla quando si sogna, quando si fa un incubo. Pierpaolo: una volta ho sognato di essere ospite da Marzullo, ma mi sono svegliato un attimo prima che mi facesse la domanda sui sogni. 349 238 6666. Giada su Facebook scrive: mi capita spesso di addormentarmi dopo pranzo, prima di tornare al lavoro, e sogno, farà la commerciante di solito, no? Perché i negozi aprono, o dormi velocemente oppure hai un lavoro in cui puoi arrivarci alle 4, 3 e mezza del pomeriggio. Insomma, mi capita di addormentarmi prima di tornare al lavoro e sogno soprattutto in quel momento lì. Oggi ho sognato che ero piccola come un accendino, ma intorno a me tutti erano giganti, però quando li toccavo si rimpicciolivano anche loro, e allora tutti scappavano da me. I sogni sono fatti anche così, non hanno alcun senso. 349 238 6666. Tutto perché Oscar tutte le notti legge delle storie ad Agnese, sua figlia, per farla addormentare. Oggi è stata una brutta giornata, insopportabile. Una giornata in cui mi sono reso antipatico in tutti i modi possibili. La mia strategia è semplice, non ho colpi da maestro, colpi segreti. Ho sempre la solita tecnica che funziona perfettamente: lo sfinimento. Goccia dopo goccia, chi mi sta accanto si annoia fino a soffocare esausto e nauseato dalle stesse cose che ripeto, dalle stesse battute, dalle mie stesse bassezze che ripropongo fino alla nausea. Ripeto, avevo una brutta giornata e so, non è sufficiente a giustificarmi. Parlo proprio tanto perché è il mio modo per sfogarmi quando non ho tempo di fare altre cose per me. Non ho tempo di andare a farmi una corsa, una passeggiata, o semplicemente prendermi 5 minuti o 10 minuti durante una giornata semplicemente solo per me. Poi, verso sera, mia figlia, come spesso accade, mi ha chiesto di fare la battaglia di cuscini. Lei ha 3 anni e sentire come si diverte mi fa ridimensionare tutte le giornate storte. Mi fa pensare che in fondo merito di essere sereno, felice e spensierato. Insomma, abbiamo giocato un po' e poi è arrivato il momento di metterla a letto. Sono le 21:15. Prendo 2 libretti che leggo 2 volte ciascuno. Il primo lo canto perché è una canzone. Il secondo invece lo leggo mentre lei mi tortura l'orecchio o i capelli, oppure apre la palpebra dell'occhio con le sue dita minuscole. Dopo il secondo libro spengo la luce pronto per inventare una storia, e qui iniziano le sue richieste, che in quest'ultimo periodo sono notevolmente aumentate. Prima mi chiede di bere acqua, accendo e spengo la luce. Poi, dopo 5 minuti, mi chiede nuovamente acqua. Poi ancora acqua. È finito il bicchiere che avevo e quindi mi alzo per andare a prendere un altro. Dopo 2 minuti mi dice che ha male a un piede. Poi mi chiede di tenerle la mano. Si gira, si rigira. Poi silenzio. Mi dice che ha male a un ginocchio. Silenzio. Mi dice che ha ancora sete. Allora accendo, faccio bere e spengo. Poi mi dice che le scappa la pipì. Non è vero, ma il dubbio mi sorge. Se davvero le scappasse. Se proprio stavolta non fosse un capriccio. La sollevo e l'accompagno al bagno, ma non fa niente, come sospettavo. Mia figlia Agnese, da grande, credo che sia una persona creativa, intelligente, sensibile, una bella persona. Torniamo a letto e spengo la luce. Al buio piego la mia caviglia che schiocca emettendo un rumore secco. «Ho sentito un rumore, c'è qualcuno?» mi chiede. È mezza nascosta sotto le coperte. «Non c'è nessuno», le dico. «È solo il piede del papà». Mi sdraio accanto a lei. Anzi no, mi sdraio per terra, su un tappeto. Nel suo letto infatti c'è Wacca, Wacchina, Cola Coalino, peluche da portachiavi, Ippopotamo, peluche gigante dell'IKEA, Winnie the Pooh, alto più o meno 15 cm, Po dei Teletubbies, alto 15 cm, e poi Gatto, lungo circa 35 cm. Papà, vieni su a letto con me. Salgo e sto sul bordo, in bilico, rischiando continuamente di cadere. Ho male al collo, le dico. Scendo e mi metto per terra. Silenzio. Mi fanno male le braccia. Silenzio. Le do un bacio e le dico che sta crescendo, che anche papà aveva male alle ossa quando stava crescendo, come lei. Poi è passato. Silenzio. Agnese dorme. Il momento in cui ci addormentiamo è sempre stato quello che mi terrorizzava di più, di tutta la notte. Quando ero piccolo, mia mamma metteva a letto me e mia sorella nella nostra stanza. Stava un po' con noi e poi, socchiudendo la porta della camera, tornava di là. Non so bene dove andasse, se in cucina, in soggiorno con mio padre o a letto, ma per me era semplicemente di là, cioè non era più lì. Parlavamo un po', io e mia sorella. Ci stuzzicavamo, ci prendevamo un po' in giro e poi ci addormentavamo. E detta così sembra facile, ma quanti sono i pensieri che vorticano nella testa di un bambino, ma non solo, nella testa di tutti, quando la luce è spenta e ci si sta per addormentare. E la cosa che mi terrorizzava allora, ma se ci penso lo fa ancora adesso, è la possibilità che una volta chiusi gli occhi tutto scompaia, che domani non ci sia più, che esisti solo se sei sveglio, altrimenti non c'è più nulla. Credo che in fondo sia un po' come la vita e la morte, come esserci e non esserci più. Adesso quel momento lì cerco di ingannarlo tenendo un libro sul comodino, che poi è sempre lo stesso, perché leggere un libro a letto la sera tardi non è veramente possibile. Quel libro io non lo voglio davvero leggere, voglio solo che non mi faccia pensare a quel momento, al momento in cui perderò i sensi e non ci sarà niente più. Il punto di massimo terrore e fascino verso quell'attimo arrivava la notte prima delle giornate importanti. La notte della vigilia di Natale, ad esempio, o la notte prima della partenza per il mare. Quando aspettavo fortemente l'arrivo di un giorno, la notte prima non vedevo l'ora che arrivasse, però avevo paura di lasciare andare il giorno che stava passando. Non credo esistano altre forme di desiderio così combattuto nella vita lucida, quella della veglia. Durante il giorno, quando aspettiamo qualcosa o qualcuno, l'attesa la viviamo consapevolmente, sapendo che dobbiamo solo far passare quel tempo. Magari riempiendolo di altro che ci tenga occupata la mente. Ma quando ad occupare lo spazio e il tempo da bambino avrebbe dovuto essere il sonno. Una notte intera che mi separava da quel giorno che aspettavo così fortemente, quella io me la ricordo come una battaglia. Una lotta tra la stanchezza che avrebbe anestetizzato l'attesa e la voglia di continuare a vivere quell'attesa. Il desiderio di continuare a desiderare. Ecco come mi ricordo gli attimi prima di addormentarmi. Poi, una notte, una di quelle notte tutte uguali, ho scoperto che sognare era una splendida alternativa alla veglia. Sognai una giornata al mare e la sognai in maniera così nitida e precisa che quando mi svegliai rimasi deluso. Da quel giorno, per un po', speravo di sognare quel sogno ogni volta che mi addormentavo, ma i sogni non sono programmabili, o non ancora, insomma, o comunque io non sono capace di farlo. Però ho scoperto una cosa che stava a metà e che era perfetta per me, perché sembrava un sogno, anche se non lo era, e mi aiutava a far passare quel momento prima di addormentarmi. Lo chiamavo il pensiero buono. Il pensiero buono era semplicemente l'immagine di un luogo, di un tempo o di una persona che mi distraevano prima di addormentarmi e che mi aiutavano ad addormentarmi felice. E quando non ho un libro a disposizione o ce n'è uno che non è particolarmente bello, ancora oggi uso la tecnica del pensiero buono. È un piccolo film a occhi chiusi, il pensiero buono. Qualcosa che mi aiuta a sentirmi bene, anche se la giornata trascorsa è stata difficile e quella di domani lo sarà forse di più. Il pensiero buono è il modo migliore per passare da quando ci sei a quando ti sembra di non esserci più. While you were sleeping, you tossed, you turned, you rolled your eyes as the world burned. The heavens fell, the earth quaked. I thought you must be, but you weren't awake. No, you were dreaming, you ignored the sun. You grew your power garden for your little one. 349-238-6666. Oggi questa è una puntata che dovrebbe andare in onda probabilmente alle 22.30 o alle 23. Se ci fosse la replica, o meglio, c'è la replica notturna, mi dicono, ma è tipo alle 5 del mattino, ho scoperto. No, non c'è proprio, Paolino, la replica notturna. Vabbè, insomma, comunque, tant'è. Questa è una puntata che magari, visto che oggi tra l'altro è il primo di novembre, una giornata particolare, sarebbe fantastico se andassi in onda verso le 23, perché parla di sogni da una parte e parla del momento in cui stiamo per addormentarci e il mondo sembra svanire. È tutto perché abbiamo seguito la fase, il processo di passaggio dalla veglia al sonno di Agnese, che è la figlia di Oscar, che ovviamente è al telefono. Pronto, Oscar? Ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Ciao. Bene, grazie. Senti, oggi che è Ogni Santi, dove sei? Sei al lavoro, sei a casa? Sono a casa con la mia famiglia, sono in una stanza un po' separata, così non si sentono le voci. Le urla. Che lavoro fai tu, Oscar? Io sono psicologo. Sei psicologo particolare o psicologo tipo dell'infanzia, psicologo della... No, lavoro prevalentemente con gli adulti e sto finendo la scuola di psicoterapia a gennaio, dovrei diventare anche terapeuta. Scusami, quindi tu stai già lavorando anche se non hai finito la scuola? No, non ho capito. Io faccio vari lavori in questo momento, okay. Fra cui anche lo psicologo e... poi da gennaio posso fare anche lo psicoterapeuta. E che differenza c'è, perdonami l'ignoranza, tra lo psicologo e lo psicoterapeuta? Allora, lo psicologo fa dei colloqui di sostegno e di accompagnamento per un periodo, invece lo psicoterapeuta può lavorare più, diciamo, in profondità o più in maniera più consistente anche per periodi più lunghi di sostegno, quindi sai, anche per... mesi o... Certo, certo. Ma scusami, e tu lavori anche sui sogni, quindi? Sì, noi lavoriamo anche con i sogni, con un metodo, una metodologia particolare del nostro... della vostra metodologia, insomma. Sì, sì. Ma è perfetto, perché noi, visto che abbiamo... E io non sapevo che tu facessi questo mestiere, e noi per un attimo, quando avevamo immaginato la puntata, avevamo pensato di chiamare uno psicologo per interpretare i sogni degli ascoltatori, che gli ascoltatori ci scrivevano via SMS. Poi abbiamo detto no, perché sembra Marzullo. E invece non fa nulla. Guarda, già che ci siamo, visto che è arrivato in questo momento un SMS di Maria che dice: nell'ultimo sogno che ho fatto... ero durante il giorno del mio matrimonio, solo che il prete era mio marito. questo ha a che fare, chiaramente c'entra Freud qui dentro. Potrebbe centrare, guarda, noi quando lavoriamo con i sogni, con il nostro metodo, con la nostra metodologia, facciamo lavorare la persona che ce lo racconta, per cui in sostanza sono tutte, ecco, uso un termine, proiezioni, cioè siamo sempre noi nei sogni, tutti quanti i personaggi che ci sono, siamo sempre noi e parte di noi, per cui poi la persona è la persona stessa che viene aiutata a interpretarlo. Insomma, siete magnifici, voi riuscite sempre a fare le domande. Una volta parlai con uno psicologo, un analista, che mi disse: no, noi non diamo risposta, noi facciamo solo le domande giuste. Eh sì, farle giuste non Senti, veniamo invece ad Agnese. Tu hai solo lei come figlia o... No, ho anche Andrea che è piccolino, fra poco fa un anno. Ah, ok, quindi ne hai due, però ad addormentarla, diciamo, per addormentarla ancora al momento è Agnese che ne ha bisogno o anche lui? Diciamo che mia compagna Silvia addormenta in questo momento Andrea che è piccolino, okay, e ha i suoi ritmi, invece Agnese vuole ancora che sia io a accompagnarla, a raccontargli e leggergli una storia. Ma scusa, allora un paio di domande diciamo tecniche, che cosa accade, visto che ne approfitto solo perché sì. se avessi fatto l'ingegnere non te l'avrei chiesto, che cosa accade esattamente nella nostra testa in quella fase di passaggio, che sono due stati di coscienza diversi, no? Giusto? Uno è la veglia, l'altro è il sonno. Sì, guarda, io proprio esattamente in modo molto molto scientifico non te lo so spiegare, quello così che a me, almeno che immagino io, è che sia proprio, ti si abbandona, immagino al sonno, ti si abbandona proprio e non te lo so spiegare in maniera scientifica. Ma perché quella è una fase in cui le paure più grosse vengono fuori, al punto che si deve distrarle, no? Con delle storie come tu e come tutti i genitori fanno con i bambini? Ma forse anche forse per viene in mente forse per poterle anche esorcizzare, per poterle stare tranquilli, affrontare e potersi addormentare, ecco, aver fiducia di potersi risvegliare. Esatto, e stare. Senti, invece cos'è questa storia che ti facevano male le ossa quando crescevi? Nel senso che io non me lo ricordo, o è una scusa così con lei? No, ma nel senso che effettivamente io sono alto 1,93 m, e quindi per un periodo ho avuto proprio, io sono cresciuto in fretta, fai conto, anche in termini proprio fisici, quindi ho proprio male alle ossa, e il medico mi diceva: guarda, stai crescendo. Fanno male le ginocchia, può essere anche un aspetto di crescita. Ah, okay. E quindi lo dico ad Agnese, che ogni tanto dice: chiama alle ossa. Senti, sì. Oscar, e poi ti saluto e ti lascio tornare dalla tua famiglia. Sì. Tu non sembri per niente antipatico. Perché apri la storia dicendo: era stata una giornata orribile in cui mi ero reso antipatico in tutti i modi? Ma perché io sono una persona che di solito non parla tanto, parlo poco. In certi giorni in cui non ho tempo per me, parlo tanto e divento antipatico. Oh, okay. Secondo me c'è gente che sa fare molto meglio di te, comunque, così a naso. Oscar, ti ringrazio moltissimo, ti lascio tornare alla tua famiglia e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, Matteo. Buona giornata. Ciao, grazie. Oscar, grazie. Ciao. Antonello, l'ultimo messaggio prima della borsa. Antonello dice: stamattina ho sognato di giocare a calcio con il Papa, ma non questo, quello di prima. Wojtyla. È su una strada di montagna, Oscar, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. È in una strada di montagna e ha sulle spalle Agnese, che è la protagonista della storia. È però quella montagna che in realtà è ancora valle. È più o meno dove si portano i bambini in estate, che non li porti proprio su in alta montagna perché gli fa male, li porti tra gli 800 e 1100-1200 metri, che di solito è alla base delle valli, no? Montane, dove d'estate fa fresco, ed è chiaramente estate perché lui ha su dei sandali, dei bermuda e un maglioncino. È proprio una di quelle giornate di agosto in montagna in cui fa fresco, si sta bene, però magari vorresti avere un po' più caldo, e lo si vede perché il cielo è già grigio, lui ha un ombrello per coprire lui e Agnese che è sopra di lui, però è stato sorpreso dalla pioggia perché ha i sandali, e per terra ci sono, è ancora tutto asciutto, ma ci sono le primissime gocce di pioggia. Sonno. Sostantivo maschile. Fenomeno periodico di sospensione più o meno completa della coscienza e della volontà, indispensabile per il ripristino dell'efficienza fisica o psichica. Desiderio o bisogno di dormire. Figurato, stato di silenzio o di immobilità. Poetico arcaico. sogno, la personificazione mitologica del sonno. Etimo, latino, somnum, data secolo XIII. Cioè, ho fatto un rumore col foglio, ho detto rifaccio la frase. Alessandra De Luca ormai dà il meglio di sé nello speakeraggio del dizionario di Voi Siete Qui. Vi ricordo che ogni giorno lo pubblichiamo anche sul profilo Facebook del programma, senza i suoi fuori onda. Quelli potete godere solo ascoltando oppure andando a beccarvi il podcast che c'è ogni giorno pubblicato sul sito di Radio 24. Pubblicato, si dice, caricato sul sito di Radio 24, ve lo scaricate con un click andando nella sezione podcast, scorrendoli fino in fondo, Voi Siete Qui. Se invece non avete voglia di ogni giorno di andare lì a scaricarvelo, vi abbonate gratuitamente ad iTunes cercando sempre tra i podcast quello di Voi Siete Qui, cliccate e ogni giorno ve lo scarica, cioè non è che ve lo scarica automaticamente, dovete andarci e fate download di tutto e vi ritrovate sempre le ultime 5 puntate, questi i podcast di Voi Siete Qui. Torniamo invece alla definizione, anzi no, prima di parlare della definizione dei sogni che arrivano su Facebook e via SMS, cioè, ho capito adesso che ogni santi sta per tutti i santi del paradiso, cioè che oggi si festeggiano tutti i santi. Quindi è di fatto è un po' come se fosse l'onomastico di tutti quanti oggi, no? È nota anche come Tutti i Santi, è una solennità che celebra insieme la gloria e l'onore di tutti i santi, canonizzati e non. Ogni santi. E lo so che lo immaginavate, lo so che l'avevate capito, lo so che vi sembra un imbecille, ma tant'è. Ettore scrive a proposito di sogni sul profilo Facebook del programma. La notte in cui c'è stato il terremoto a Novi, parliamo di Emilia Romagna, io ero in viaggio per lavoro e non ero a casa insieme a mia moglie, ma ho sognato che la casa si alzava da terra come nel film Up. Avete presente il film Up, quello della Pixar, quello meraviglioso in cui c'è l'anziano che muove la casa attaccandola dei palloncini e volando via. Quindi la casa, come nel film Up, volava via. Mi sono svegliato con una strana sensazione e il telefono è squillato subito. Era mia moglie che era già fuori casa dopo la prima scossa. 349-238-6666. Sergio invece scrive: sono sindaco di un paesino. C'è qualche sindaco che ci ascolta ogni tanto? Come si chiamava quello che ci ha scritto la storia? Giulio. Giulio era sindaco, cos'era? Piemonte, no? Mi pare. Un paesino. Anche lì montagna. Cioè, anche lì non so perché mi immagino che Sergio sia sindaco di un paesino. Mi piace immaginarlo sindaco di un paesino di montagna. E ho sognato che i cittadini volevano incoronarmi re. Io mi rifiutavo, loro insorgevano e nominavano un altro sindaco, conducendomi in una orribile prigione sotto il campo da calcio dell'oratorio. Ecco, Sergio, io non so, sì, sembra una fiaba dei Fratelli Grimm, io non so che rapporto tu abbia con i tuoi concittadini, ma soprattutto non so per te che cosa significhi fare il sindaco, però forse è meglio a un certo punto, no? Anche decidere che le cose possono finire. 349-238-6666, visto che parlavamo di sogni e di sonno, a me è venuto in mente un pezzo tratto da Peter Pan. Sapete che Peter Pan, la storia di Peter Pan, prima di essere un film, non è un romanzo come si pensa, è una pièce teatrale, cioè un testo che è stato scritto da James Matthew Barry per il teatro. I personaggi però sono quelli lì, insomma, Peter Pan, come si chiama, Campanellino e poi soprattutto Capitan Uncino. C'è un pezzo magnifico che si trova proprio verso la fine, parliamo dell'atto quinto, in cui Capitan Uncino è di notte, è sul ponte della sua nave, parla del momento in cui si stanno per addormentare i bambini e quindi parla anche di sogni. Atto quinto, scena prima. La nave dei pirati. Dalla cabina di Uncino, sul retro, appare Starkey che si china sul parapetto e sorveglia in silenzio l'acqua scura. È a capo scoperto. Il pirata nero dorme sul ponte, ma perfino mentre sogna, rotola da parte quando Uncino si avvicina. L'unico suono che si ode è Smè, alla macchina da cucire, che dà un tocco domestico alla notte. Uncino ora si appoggia all'albero maestro, ora si aggira per il ponte, con il doppio sigaro in bocca. Adesso che è sicuro di essersi tolto Peter Pan di torno, noi, che sappiamo quale vano tabernacolo sia un uomo, non ci sorprenderemmo se si lasciasse trasportare dai venti del successo. Ma non è così. Prova ancora disagio e fissa a lungo e senza motivo oggetti familiari come la campana della nave o il cannone, come uno che presto potrebbe lasciarli. È come se il terribile giuramento di Peter Pan, questa volta ho un cinome, fosse già arrivato a bordo della nave. Capitan Uncino tra sé. Com'è calma la notte. Non c'è nessun segno di vita. Questa è l'ora in cui i bambini sono a letto nelle loro case. Le labbra lucide del cioccolato della buonanotte. Le lingue che vanno stancamente alla ricerca di qualche briciola dimenticata che tremola sulle loro guance luccicanti. Confrontali con i bambini su questa nave che stanno per camminare sull'asse. Metti pure un limite ai miei infiniti, ma questa è l'ora del mio trionfo. Eppure nessun bambino mi ama. Mi è stato detto che giocano a Peter Pan e che il più forte vuol sempre essere Peter Pan. Preferiscono essere un gemello piuttosto che un cino. Obbligano i bambini piccoli a fare un cino, i bambini piccoli. Ecco dove mi rode il cancro. Night swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. 349-238-6666. Ho sognato, scrive Silvia, ho sognato di viaggiare su un treno che però non raggiungeva mai nessuna destinazione. Questo è uno di quei sogni orribili, ma questo è uno tipo di quei sogni ricorrenti, credo, che ritornano periodicamente. Anche se oggi si parlava semplicemente dell'ultimo sogno che avete fatto. Mi chiedono da dove è tratto la cosa che ho letto, ve lo ripeto, è tratto da Peter Pan, molto semplicemente dal testo teatrale che in Italia è pubblicato da Feltrinelli. Visto che questo programma è un programma che parla di storie e ogni giorno raccontiamo una storia diversa, noi continuiamo a chiedere di mandarci le vostre storie. In che formato? Perché ogni tanto qualcuno ce la manda probabilmente facendosi prendere la mano, ecco, diciamo così. Noi vi chiediamo di raccontarci un episodio della vostra vita, uno semplice, una storia però deve essere, non deve essere una riflessione, non deve essere un dialogo, ad esempio i dialoghi per noi è molto difficile farli diventare una puntata, deve essere semplicemente un piccolo episodio della vostra vita che racconti qualcosa di voi, che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine. Vi chiediamo di inviarlo a voi siete qui, @radio24.it, noi lo leggiamo e ci costruiamo una puntata. Di tutte le mail che ci arrivano, di tutte le storie che ci arrivano, alcuni semplicemente ci scrivono ecco la mia storia, oppure alcuni non scrivono niente, mettono l'allegato Word, alcuni invece scrivono la storia sulla mail e altri invece scrivono delle introduzioni, delle mail di presentazione, come quella di Anna, che è arrivata 2 giorni fa e dice così. Ciao Matteo, ti invio l'allegato con il mio racconto. Non temere, è vero come è vero che sono viva. L'idea di mandartelo mi è venuta questa mattina mentre nuotavo a dorso in piscina e la storia è affiorata tutta d'un botto. Giunta a casa ha avuto l'urgenza di metterla per iscritto e ora mi sento più leggera. Scusa se non so scrivere in modo elegante, ti abbraccio e ti ringrazio per la trasmissione che ascolto. Quando posso, sempre molto volentieri. Firmato Anna. Anna, grazie mille. No, devo dire che è chiaro, è più forte di me, che quando arriva un racconto introdotto da una mail così, io lo leggo ovviamente con un interesse un po' più alto del solito. Grazie ad Anna, grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Grazie soprattutto ad Oscar. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Valentina, ho 32 anni e chiamo da Chiari e la storia di domani è la mia e parla del metodo Orff-Schulwer. Questa è la mia storia e io sono qui.